Hai gli occhi di tuo padre, la bocca di tua madre. Sul tuo viso loro due stanno ancora insieme. Ti ha distrutto l'amore, è il mio stesso veleno. 26 lettere ed ancora non ci chiamiamo. È un dolore di lusso il tuo, scritto d'inchiostro nero che getti sopra i vetri se non ti piace ciò che vedi. Non preoccuparti amore mio, esisti tu, esisto solo io. Ci rinnegano, ci lapidano e noi con quelle pietre costruiremo una parete. Nella buona, cattiva sorte, io l'amerò, l'amerò fino alla morte. Nella buona, cattiva sorte, io l'amerò, l'amerò fino alla morte. Fino alla morte, fino a che? Fino alla morte, fino a che? Non finirà. Facciami forte tra i dipinti al museo, mentre urli sei cambiato e rispondo non è vero. È un amore di lusso il mio, scritto pure di lacrime e dall'ossessione per il sapore del dolore. Tu vuoi scegliere per mestiere e diventare il mio carceriere. Non capisco qual è il trucco, ma capisco qual è il piano. Controllare da lontano. Nella buona, cattiva sorte, io l'amerò, l'amerò fino alla morte. Nella buona, cattiva sorte, io l'amerò, l'amerò fino alla morte. Come l'avessimo inventato noi. Prendi me con ogni mia ferita. Prendi me come per tutta la vita. Nella buona, cattiva sorte, io l'amerò, l'amerò fino alla morte. Nella buona, cattiva sorte, io l'amerò, l'amerò fino alla morte. Fino alla morte.